Lo habíamos anticipado y vamos a cumplir con nuestra promesa. Vamos a tener una comunicación muy importante para todos nosotros, para los argentinos, porque escuchar su palabra nos hace sentir más cerca de lo sagrado, porque escuchar su voz nos hace sentir más buenos, porque estar en comunicación con él es estar con todos nuestros hermanos. Él es el Papa Francisco, el Papa del pueblo, el Papa de los pobres. Y gracias a Hugo Gullman, que lo conoció cuando todavía no era judío y de izquierda, sino católico, y de guardia de hierro como él, estamos en contacto telefónico con el Papa argentino. Su Santidad, gracias por atendernos. ¿Cómo está Gabriela de Lelisi? Los 40 millones de argentinos lo estamos saludando. ¿Cómo me va, Gabriela? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bien, bien. Feliz de escucharlo. Sí, yo sono tanto felice. Ma da prima voglio dire una di dare, di donare una pronta benedizione per tutto il popolo argentino. Sì, oh, sì. Ti piace? Sì, claro che sì, la necessitamos. Ma in formato di canto gregoriano o gregoristico. Ah, bueno. Bene, ahí va calentando la voce. Una benedizione per tutti gli argentini. Sì, con un po' di camera. Con un pochito di camera. Ahí va, un, due, tre. Come sono Papa, benedico al popolo. Che Dio sacrosanto guardi a tutto. Tutto. E a tutti. Tutti. Perché il popolo è molto soffrito. Soffrito. La benedizione è per mesi la pulga. Pulga. E adesso per il di Isabella il paciorra. Ciorra. No, ciorra che da fantosso. Posso. Già terminé la benedizione, hermano, la benedizione si acabó. Amo. Bueno, basta, silenzio. No se dan cuenta cuando se acaba la... Hermano, por favor. Claro. Bueno, basta. Sorellina. Sí. Scusa, hubo una pequeña falla. Sí. Ma dimmi cosa fa per l'Argentina. Come va il mio paese, che tanto strano en el mio cuore? Y bueno, Su Santidad, la verdad es que, bueno, me imagino que usted sabe lo que pasó con el fallo de la Corte. Mm. Bueno, usted hizo algunas declaraciones sobre sí, eso, así ecco que... Sí, ecco le cose, sorelle. Sí. Ma questo giudice, sí. Ma il giudice non è la diputata del pelo allo spray come ah. Playmobil. Ah, no. No, il giudice è un uomo sì. Che imparte la giustizia, la legge. Un juez. La legge, la lei, l'equità. Sì. E questo... E giudici è una porca vergogna, è un mamarracco, è svergonzabile. Usted dice che il fallo della Corte fu una vergogna, a Sua Santità. Propriamente. Argentina non poter di pagare tantissimo denaro a questo sfondo avvoltoio. No, disculpe, però che è avvoltoio, Sua Santità? Avvoltoio è un passero malo. Feo, che anda cercando e rimescolando la spazzatura, la immondizia. Ah, no, però non lo intendo, Sua Santità, discúlpeme. Buite, Jorge! Fondo buite, sente la facile, la prima, Jorge! Ah, già entendí, entendí, claro. Ebbene, perché la sorella ha intenduto perfettamente. Sì. Il sfondo è perché l'italiano... Sfondo avvoltoio. Che... Claro, sfondo avvoltoio. Dice che il nostro paese deve di pagare tantissimo denaro, 1.500 milioni di dollari. Non sono due manico, eh? Ah, io non lo sto intendendo molto, Su Santità. Che due manico? No, manico è mango, Jorge. Il manico della casseruola. Il mango all'italiano, Jorge, non si intende un pomo. Ah, ya entendí. Mira, ves que entendió. Entendió perfectamente. Ha comprendido perfectamente manico, porque es como una casseruola de manico. Claro. Ma io ti voglio dire che tanto denaro non è colaticcio di pavone. ¿Cómo estoy? Yo seré yo que estoy lenta, pero no lo estoy. Discúlpeme, pero su santidad no lo estoy. No lo entiendo. Ma io ti spiego. Colaticcio è la corsa che viene dal naso. E pavone è un passero grandissimo che si mangia e fa cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc cluc È una cosa mala, ma perché? Perché? E perché se paghiamo, sorellina, dove queda il risparmio? Usted dice el ahorro, claro, bueno, sí, claro, no podemos ahorrar. No. Pero además, su santidad, sí. ¿A usted le parece justo que tengamos que pagar esa plata, ese dinero? No es justo, y no es un buen momento, Gabriela, mía. No. Ma perché questo momento? Perché all'Argentina stiamo vivendo un momento storico molto speciale. Claro. Con questa Coppa Mondiale di Brasile. Ah. Ma sì. La selezione brasiliana è un disastro totale. Non posso fare né un miserabile gol al messicano, che è una momia discapacitata. No. Ma la squadra brasiliana, Neymar, un morto. No. Alves, un trozzo di madera. Oscar, ese Oscar. Me recuerda al Mamila Rambert, nena. No, pero su santidad. Sí. ¿Usted cómo relaciona el fallo a favor de los fondos buitres con el Mundial de Brasil? No logro comprender. Porque, te spiego, porque yo voglio di donare, dar, sí. Al DT Scolari la perla nera di questo papa. Scolari, te hablo. No. Tú puedes essere un buon padre di famiglia, Scolari. Può essere un amico benissimo, un uomo onesto, ma come di te, sono un disastro, orribile, per Scolari, per la nera. Jorge, sono il Papa, Jorge, il Papa, se sono il Papa, decime su santità, o Francisco. Però non potete dar per la nera come Guillermo Nimo, non fate passare vergogna, questo è il Papa Nimo. Non mi dica, Papa Nimo. Quería hablar de los fondos buitres, Papa Nimo. No, está bien, no, está, su santidad, ¿usted me escucha? Respeten. ¿Usted me escucha? Su santidad, ¿usted me escucha? Sí, me escucha. Me hace renegar. No, sí, ya lo escucho. Me lastima el cuore. Sí. Igual. Están como parla. Con la boquilla per entrar al personaggio. No, ¿cómo parla, Bueno, no, que le quería decir es que si usted quiere, hablamos de fútbol, su santidad. Yo no, la verdad es que no lo quiero molestar. No, no es un molestamiento, Gabriela. Ma questo sfondo avvoltoio sono una disgrazia. Sì. Hanno arrovinato lo spirito mondialista. Sì. Arruinaron el espíritu mundialista. Claro, no es momento. Questo era un momento del calcio. Y te digo que aquí, como fratello Mariano, anche le fratello José, stiamo facendo un lavoro spirituale metafísico contro il enemigo maledetto. Su santidad. Sí. ¿Están haciendo un trabajo espiritual en contra de los fondos buitres? No. Incorrecto, sorella. El lavoro es per el enemigo futbolístico. Contro la squadra brasilera. Andiamo questo e così, mira. Ascolta. Sì. Brasilero Oscar, che te pegue il pallone al poste. Si salga para el corner. Amen. Neymar, che il bottini ti aggiusti la pata. E te salga Cayo Plantales. Amen. Brasilero Alves, che venga un nero camerunense e ti haga frattura doppia di tibia e peroné. No, podemos pedir una fractura de un jugador, una lastimadura de un jugador. Está mal eso. No se le desea mal a nadie, Jorge. Vos sos el Papa, bueno. No soy el Papa bueno, soy un Papa argentino, hermano. No soy ningún Papa bueno. Pero Jorge, es pecado pedir que le rompan la pierna a alguien. No es pecado. Es el mal, Jorge. Es pedir el mal. ¿Qué sombra azúcar? Ustedes dos sombra azúcar. Pero sombra brasileños. No son ni buenos curas, ni buenos hinchas. Ay, cuánta solitudine que habevo qui al Vaticano. Me siento solitudino. Solo. No, pero no diga así. Come strano al Barra Bravo di San Lorenzo, all'Inca, all'Inca del Ciclone, alla Incata. Non si dice la C all'italiano, ciao, te lo spieghi. Quello sì che era un Incata come la gente, non come questo due. No, igual no diga él. Pecco, pero no sono due pecco frío. Pecco freddo. Tranquilo. Tranquilo, su santidad. Además, le digo una cosa. ¿Quiere que le diga una cosa? Usted no está solo. Para nada está solo. Somos millones, millones los que lo queremos y estamos con usted, su santidad. Yo te ringrazio tanto del fondo del mio spirito. Ma sorella, io sono tanto preoccupato per la falta di spirito a questo mondo. Questo mondo è un disastro. Ma spirito del mondo dove è? Mi dà dolore dalla gente che pensa tanto al denaro, alla ghetta, è una cosa terribile. Sì. Y yo le tengo que dar la razón, la verdad, su santidad, porque la gente es muy materialista, santidad. Usted sigue pensando en los fondos buitres, ¿no? Le dolió mucho eso, ¿no, su santidad? Solo pensando a la falta de espíritu mundialista, non pensava mai della Tarasca, pensa al mondiale, al championship della nostra squadra, al gol di Messi, al tocco di Gago, alla mano, alla due mani di Kiki Romero, Ti lo domanda. Kikito, come è Kiki? Ti lo domanda il capo di tutti i capi. Cristianità, ti lo domanda il capo diga, di tutti i capi. Il capo di tutti i capi che pare essere il capo della Ma no, mafia, signore, sono il capo di tutti i capi della cristianità. E poi sigan con eso che non vamos a terminar más, hermano. Cinci Cagagua, Jorge. Benissimo, incolati al Chapam. A ver, Michel Babatunde, Jorge. Perfetto, incolati alla Nigeria. Scusami, sorella, Sì. Me salió Yuri Silvó, Jorge. Benissimo, incolati alla Russia. Pero su santidad, ¿qué es lo que están haciendo? Están abriendo cartas que le llegan de todo el mundo, ¿no? No, letteralmente. Può essere, ma non ti può dire, perché questo è un lavoro segreto del Vaticano. ¡Está llegando la luz del Mundial de Figuritas, señorita! ¡Ay, sí! Hace dos días que nos tiene pegando filtro. ¡Sí, está llenando! ¡No te hagas el misterioso, Jorge! ¡No estás haciendo nada, papal! ¡Es una cosa papal! Questo è il album. Che ortiva che son, hermanos. No. Che ortiva. Non sabe guardare un segreto del Vaticano. Però no. Sì, sabe nel lugar. Tenemos un lugar di hay que tener cuidado. Y bajar el púlpito. Pero no, señor. Questo è no, salga media acá, me tienen cansado. Questo è il album del album Papa del Mondiale, e quando io lo piene, sorella, lo scene, claro. Me ne vado al chiosco a cercare il pallone numero 5 che mi voglio ganare. Una pelota. Quando scenasse l'album, Jorge. Già te lo explicavo, Jorge. Guarda questa, Samuel Eto'o, a questo nero non lo tenia. Incolate al camerunense, Tomà. Bueno, su santidad, entonces, si le parece bien, lo dejamos trabajar tranquilo, ahí pegando figuritas tante en el Vaticano. Tante gracias, sobrina. Ahora, discúlpeme, sí. Su santidad, yo tengo una sola duda. Sí. Usted que cuida tanto el dinero. El risparmio es la prima cosa. Sí, pero mire lo que le voy a preguntar. ¿No están gastando mucho en figuritas? Vos son caras. No, sorellina, di nessuna maniera. Ah, no? Io ho comprato solamente due pacco di fichus. Due pacchettito? Due pacchetti di fichus. E dopo, Dio Sacrosanto Benedetto che sta al cielo, mi aiuta molto con la moltiplicazione quasi miracolosa dalla fichu del Mondiale. No! No, usted multiplicó las figuritas del Mundial como Jesús con los panes y los peces. No lo puedo creer, en serio. No, bueno, più o meno così, ma o meno, più o meno. Come Jesu, no, mentira, come Jesu. Jorge, mentira, decide la verdad. Se va a jugar a la figurita con los pibes, señorita, y los nenes se dejan ganar porque es el Papa. Sí, toda, la tarde, toda la tarde en la Plaza San Marcos está jugando a la figurita, Jorge. Te la van a dar, eso no es papal, Jorge, te van a dar el testigo. Bueno, basta, basta que vino. Ahí viene un pibe, ahí viene un pibe que es un tronco y le voy a ganar toda la ficha. Gabriela, te bajo. Sí, sí, su santidad, dígame. Yo te bajo, te saludo y le digo a todo el popolo, Argentina, a vincere, a matare o morire, a fare moltissimo gole e a ritornare con la coppa, la gloria o la morte totale. Ciao, nena. Ciao, ciao, ciao, su santidad. Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo.